place of our commendations. It's been unbelievable. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Cactus 15.9, turn left hang 270. This is Cactus 15.39, hit bird, so you've lost thrust on both engines, returning back towards LaGuardia. Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading up 220. Era inizio quest'anno, il 15 di gennaio, vivemmo praticamente in diretta questa storia pazzesca. Un aereo decollato da JFK, anzi dalla Guardia, entra in crisi sui cieli di New York, prova a considerare un atterraggio nel New Jersey, poi capisce che non è possibile, al che il comandante dell'aereo, il comandante Chesley Sully Sullenberger, prende su di sé il carico dell'operazione, chiude la radio, la voce dalla cabina pilotaggio, quella che avete ascoltato poco fa, chiude la radio, dice alla torre di controllo, vabbè, lasciamo perdere, va, ci penso io, e scende nell'Hudson, e i newyorkesi, che di cose strane ne hanno viste tante, hanno anche visto un aereo passeggeri atterrare dolcemente nell'Hudson con il suo carico di vite umane perfettamente salvo, e poi ci fu il famoso recupero dei passeggeri con tutte le barchette attorno all'uccello ferito nell'acqua. Ebbene, la notizia di oggi è una di quelle storie che ci piacciono, che incoraggiano certamente anche come dire, il mondo dei viaggiatori, no? È che Sullenberger, il capitano Sully, è tornato a volare. Aveva già fatto un paio di voletti interni di prova, ma ieri ha fatto il volo con la I maiuscola e la V maiuscola, quello che conta, cioè ha rifatto la tratta per la US Airways, la sua compagnia, la tratta da New York a Charlotte, la stessa che mise in salvo in quel giorno di inverno. Ben 4 passeggeri del volo di gennaio hanno chiesto di essere a bordo dell'aereo, uno anzi in particolare ha chiesto di avere lo stesso posto di quel giorno maledetto barra benedetto. Sullenberger in cabina di pilotaggio ha incontrato il suo primo ufficiale, si chiama Jeffrey Skiles, hanno volato di nuovo insieme, e il comandante ha detto: tornare in cabina di comando è molto familiare, è come tornare a casa. Applausi da tutta la cabina dei viaggiatori che, facendo noi i calcoli statistici, sapevano che il volo sarebbe andato benissimo. Infatti tutto è andato a meraviglia, con atterraggio morbido, e poi applausi compatti naturalmente da tutta America, compreso anche Buongiorno America. Spostiamoci, Copenaghen. Primo piano. Everything about this bid speaks to what the city has to offer. La coppia cala un full, un poker, una scala reale, staremo a vedere, lo capiamo oggi pomeriggio. Di fatto Barack e Michelle Obama hanno fatto il possibile per portare le Olimpiadi a Chicago. Gli americani fino a pochi giorni fa ignoravano la questione, avevano ben altri problemi. Poi i media americani hanno cominciato, sulla spinta proprio prima naturalmente della elite di Chicago, poi con la partecipazione della Casa Bianca e della tanta Chicago che in questo momento risiede dentro l'amministrazione Obama, hanno cominciato a capire che era una questione, era una sfida, andava giocata all'americana, cioè portando a casa la vittoria. Per cui è partito anche Barack Obama, e Michelle ha fatto i suoi discorsi, ha fatto tutta la preparazione, poi è arrivato Obama e ha fatto il suo discorso oggi a Copenaghen per battere la concorrenza, soprattutto la concorrenza più agguerrita in questa sfida a quattro. Tutti dicono che Tokyo e Madrid sono lì un po' per onor di firma, ma presto le loro candidature cadranno. Ma invece Rio ha molti assi nella manica, e tra l'altro c'è anche Lula, il presidente brasiliano, a sostenere la candidatura di quella che sarebbe la prima Olimpiade sudamericana. Obama ha fatto un discorso molto pacato, ma anche ben rodato, ben affilato. Non vi scordate, insomma, che quello è l'uomo che ha condotto la più straordinaria campagna elettorale, forse di tutti i tempi, sicuramente d'America. Quindi come si fa una campagna elettorale, come si consegue un risultato, lo sa benissimo, se lo ricorda ancora perfettamente. Del resto ha talmente fatto propria la causa di questa Olimpiade, il presidente, che a questo punto è diventata anche una trappola, e di questo parlano molto i giornali e le televisioni americane questa mattina, perché una sconfitta vorrebbe dire che l'Obama Touch, no, il tocco magico che trasforma tutto in oro, in vittoria, in speranza, in prospettiva, potrebbe essersi un po' perduto per strada. Quindi una vittoria conforterebbe naturalmente lo status di Obama, ma una sconfitta sarebbe tutt'altro che invisibile, potrebbe avere dei contraccolpi certamente controproducenti. Ha detto Obama: in questo momento gli Stati Uniti devono forgiare nuove coalizioni nel mondo. Tutti noi crediamo in un mondo in cui troppo spesso si sono visti gli aspetti più bui dell'umanità, e allora cosa meglio che trovare il senso più profondo dell'America usando la città più americana d'America. Così è nota The Second City, The Windy City, ma soprattutto Chicago è considerata la vera America, lo specchio perfetto dell'America, la più americana di tutte. Ha detto ancora Obama: credo nel movimento dello sport, sono un cittadino di Chicago e rappresento qui i cittadini americani, non vediamo l'ora di ospitare atleti e persone di tutto il mondo sulle sponde del lago Michigan, siamo una nazione che ha aperto sempre le braccia ai cittadini di tutto il mondo, compreso mio padre che veniva dal continente africano. So che la scelta è difficile, sono qui per sollecitare la vostra preferenza per la mia città, ho lavorato insieme a persone di qualsiasi classe e religione, ho scoperto che Chicago è la città più americana, con una storia unica formata da tanti quartieri che io ho imparato a chiamare casa mia, home. Alle spalle di Barack Obama il trio di formidabili signore, che è stata un po' la caratteristica di questa bid, di questa scommessa elettorale olimpica, ovvero naturalmente Michelle Obama e il suo già leggendario vestito giallo, Oprah Winfrey, la faccia mediatica dell'America femminile, dell'America nera e dell'America tout court. Il successo impersonato da Oprah è ormai un dato di fatto, e poi Valerie Jarrett, ovvero la pigmaliona sia di Michelle che di Barack Obama, che ha ricevuto il mandato di presiedere il Comitato Olimpico di Chicago. Nel pomeriggio gli esiti, ma per concludere, siccome di tanto in tanto lo facciamo, soprattutto il venerdì perché ci diverte, perché è un giorno così che anticipa il fine settimana, anche oggi abbiamo voluto guardare dentro l'agenda di Barack Obama, insomma questo ometto che fa un lavoro ben discretamente retribuito ma piuttosto impegnativo, per capire come faceva a andare a fare questo discorso a Copenaghen con le gatte da pelare che c'ha dall'altra parte d'America. E abbiamo scoperto che è atterrato alle 2:10 della mattina, ora americana, cioè l'ora sua, le 8:10 del mattino nostre, è arrivato a Copenaghen, quindi praticamente non ha dormito, che alle 2:50, ma alle 8:50, alle 9 del mattino dell'ora di Copenaghen, ha fatto il discorso, quello che abbiamo appena riassunto. Poi alle nostre 9:40 ha incontrato i giornalisti, alle 10 ha fatto un ricevimento, alle 10:45 la regina della Danimarca, alle 11:20 il primo ministro della Danimarca, e alle 12:55, 6:55 nel suo orologio biologico della mattina, ha ripreso l'aereo per Washington, è in volo, arriverà alle 21:15 nostre, che sono le 3:15 del pomeriggio suo, ma a quel punto sarà completamente impazzito, va alla Casa Bianca e sapete che fa per gli americani? Fa un bel briefing, ci racconta com'è andato. And bring your friends, it's fun to lose and to pretend. She's overboard and self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, hello, hello, how low. Hello, hello, hello, how low. Hello, hello, hello, how low. Hello, buongiorno America. I have had sex with women who work for me on this show. Now, my response to that is, yes, I have. Yes, have. La gente ride, ma c'è poco da ridere. Questo è Letterman che non sta una volta tanto facendo uno dei suoi monologhi comici, ma sta raccontando un pezzo assai così imbarazzante della propria vita, ovvero sta ammettendo di aver avuto un affair, un extramatrimoniale, insomma, di essersi fatto una storia di sesso nello staff del suo programma, David Letterman Show, che la cosa è di, se poi ha cambiato natura, è diventata una questione di ricatto. La ragazza, la persona in questione lo ha ricattato con un pacchetto che conteneva una parte delle prove che avrebbero potuto rendere pubblica la questione. Ha deciso di ricorrere alle autorità, ha raccontato tutto, il procuratore lo ha invitato a consegnare alla persona in questione un falso assegno da 2 milioni di dollari, la cifra richiesta in cambio del silenzio. A quel punto la polizia è intervenuta e ha arrestato la donna, e poco più tardi David Letterman si è sentito in dovere, con il suo tocco, anche lui c'ha il suo tocco come Obama, ma insomma la questione era davvero spinosa, di raccontarla agli americani, e l'ha fatta in un monologo di 9 minuti che sta già diventando un hit della rete e anche delle televisioni, insomma, in cui ha detto che naturalmente proteggere la sua famiglia è sempre la sua priorità, in cui non ha neanche troppo esagerato in tardivi pentimenti, insomma, le cose sono cose, i fatti sono fatti. L'uomo ha 62 anni, la sua vita privata e sessuale è una questione sua, poi quando diventa una questione criminale è tutt'altro ordine di cose. Però appunto tutto il mondo è paese, i celebri inciampano e devono parlarne pubblicamente, e questa è la lezione che Letterman ha dato, sia pure, ripeto, con qualche inciampo e molti imbarazzi, agli americani ieri sera. Altro imbarazzo enorme è quello di Roman Polanski, che resta incastrato nella rete che lo trattiene per adesso, anche perché dopo l'ondata di scandalo, di repulsione, ci verrebbe da dire citando il titolo di un suo film, nei confronti del maestro imprigionato, adesso c'è quello che invece gli americani chiamano un backfire, no? Un ritorno di fiamma, nel senso che ci si ripensa e si dice: ma tutto sommato in fondo è un essere umano pure lui, se ha fatto una stupidità o una porcheria, non si vede perché in base alla propria arte cinematografica, o come addirittura qualcuno ha evocato, perché i suoi genitori sono stati in campo di concentramento, non debba pagare i propri errori, se non altro rendere conto alla giustizia. È quello che adesso New York Times e Los Angeles Times scrivono nei propri editoriali, modificando anche l'atteggiamento di partenza, quello poi che aveva mobilitato tutta l'intelligenza americana, Scorsese, David Lynch, Woody Allen, a dire: no, non può pagare adesso, è troppo tardi, è fuori tempo massimo, erano tempi diversi. Sono tra l'altro emersi dei particolari molto spinosi sul fatto in se stesso, che potete anche trovare, sono anche come dire piuttosto pesanti da leggere, c'è una ricostruzione che cosa accadde veramente quel giorno tra la tredicenne e un uomo di 40 anni suonati, e non è esattamente rose e fiori. La posizione di Polanski si va appesantendo. Infine, sapete, il venerdì ci occupiamo di spettacolo, cultura, consumi culturali. Vi voglio dire che era vero, il libro di Ted Kennedy è primo nelle classifiche di vendita della saggistica americana. Si chiama True Compass, la vera... buonanotte, adesso dopo lo traduco. Poi al secondo posto, la vera bussola, Compass, grazie. Al secondo posto il libro di Krakauer, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, Where Men Win Glory, la storia di questo giocatore di football americano professionistico che va in Iraq per combattere la propria guerra, finisce ammazzato da fuoco amico, viene trasformato in un eroe, ma è un eroe per caso. Due libri anti-Obama molto alti in classifica, uno si chiama Culture of Corruption, la cultura della corruzione, di Michelle Malkin, tutte le nefandezze di Obama, e Liberty and Tyranny, libertà e tirannia, invece un manifesto per la riscoperta conservatrice. Al nono posto delle classifiche di vendita, lo vogliamo almeno citare, la biografia, autobiografia di LeBron James, campione del basket, si chiama Shooting Stars, no? Le comete meravigliose come lui, che tra pochi giorni entreranno in azione. E poi adesso invece vi racconto un'ultima storia per la quale vi potete anche appoggiare sulla vostra poltrona se ne avete una a portata di mano, perché è una storia musicale, è la storia della ultima British Invasion, invasione britannica musicalmente parlando d'America. Gli americani stanno diventando cretini dalla passione, dall'amore, dalla sorpresa, dal gradimento nei confronti di del più improbabile gruppo pop possibile, ovvero la Ukulele Orchestra of Great Britain, la orchestra della Gran Bretagna di ukulele, un gruppo di pazzi che suonano tutti l'ukulele e cantano canzoni famose. A chi gli chiede perché lo fanno rispondono tipo perché così ci trattano tipo orsacchiotti, oppure guardate che fa passare la depressione, oppure dovete tenere presente che è uno strumento molto potente, oppure dicono di aver scelto l'ukulele perché così non devono mai fare il check-in all'aeroporto. It's a god-awful small affair. Girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through a sunken dream to the seat with the clearest view. Now she's hooked to the silver screen, but the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools, though they ask her to focus on sinners fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Selling Show è The Life on Mars di David Bowie, naturalmente questa versione troviamo travolgente, ve la sottoponiamo, della Ukulele Orchestra of Great Britain, con cui tra l'altro chiudiamo la nostra settimana di Buongiorno America. Ma poi in questo pezzo succedono cose strane, vedrete, arrivano altre canzoni, si intrecciano, insomma, l'ukulele evidentemente è uno strumento magico. Provate a sentire. I'll state my case, of which I'm certain again. I've lived a life that's full of trouble each and every byway, but more, much more than this, I did it to my mother, my dog and clown. Insomma, arriva My Way, no? Bello, no? Anche un po' commovente, così, malinconico. Cioè, abbiamo scoperto tardivamente, ma meglio tardi che mai, l'ukulele. Spero che piaccia anche a voi. Noi da oggi in poi consumeremo, almeno per il weekend, solo dischi di ukulele, e direi che mandiamo la sigla. Dai. Guardate che fanno anche i Sex Pistols, c'è una versione di Anarchy in UK, niente male, Ukulele Orchestra of Great Britain, ne vanno pazzi gli americani, ne scrive il New York Times, un articolo molto dotto, e ne parliamo anche noi qui a Buongiorno America. Adesso trovo i nostri crediti, eccoli, abbiamo una mail che è buongiornoamerica@radio24.it, una pagina Facebook che è redazione Jefferson 3, iscrivetevi numerosi, abbiamo una replica a mezzanotte 10, in regia oggi c'erano Alessandro Chiappini a Roma, Fabio Cantadori a Milano, la redazione è fatta da Gloria Guerrera, io sono Stefano Pistolini, vi auguro un buon weekend, ci sentiamo lunedì dopo l'1:30 qui su Radio 24, state tutti bene.